Che fate stasera? Volete venite con noi? Grandiosa la vita, lo sai chi l'ha detto? Non è grandiosa la vita.